Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Tempo, comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo. Puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato e fino adesso niente lo è fermato. E tutto più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che si è data di fare. Buongiorno a voi da Nicoletta. Oggi voglio proporvi un mini corso per una gestione serena delle energie e del tempo. Due parole, due concetti con cui volenti o nolenti ci misuriamo ogni giorno e che sono collegate tra loro, perché ci vuole energia per vivere pienamente il tempo che la vita ci mette a disposizione, ma spesso ci accorgiamo che con il tempo la nostra energia diminuisce. Pensate a quello che siete riusciti a fare ieri, alle cose che avreste dovuto fare e invece che siete stati costretti a rimandare, e provate anche a pensare in che condizioni siete arrivati a casa ieri sera, di che umore eravate e soprattutto vi sentivate soddisfatti o un po' abbattuti. Signora, lei è praticamente perfetta. Racconti al nostro pubblico qual è la sua giornata tipo. Ma è così semplice. Beh, io mi sveglio alle 7, sì, e porto giù il cane. Poi preparo la colazione per i miei bambini, sì, croissant e frittelle. Mi butto nel traffico, li porto a scuola verso le 8:30. Alle 9 sono in ufficio, un paio di riunioni. Alle 12:30 scendo per un po' di jogging. Alle 13 torno a casa perché mio marito detesta i panini, sì, e io gli preparo un pranzo ipocalorico. Alle 14:30 sono di nuovo in ufficio, faccio un altro paio di riunioni. Alle 16:30 ho il corso per manager rampanti, sì. Alle 17:30 vado a prendere i bambini e li porto a canto, danza, nuoto e catechismo. Alle 18:45 vado in un supermercato in periferia perché lì costa meno e lì io faccio la spesa. Poi torno a casa, preparo la cena per i bambini e per il cane e via, una bella favola, li metto tutti a letto. Preparo quindi la cena per mio marito che arriva sicuramente con 5 colleghi. Signora, per essere moglie, madre, amante, manager, come fa? Come fate? 800 24 00 24, che stress! In studio con me la dottoressa Marcella Danon, psicologa, autrice di Stop allo Stress, guida pratica per gestire meglio tempo ed energia, Apogeo, gruppo Feltrinelli, editore. Buongiorno! Buongiorno e buongiorno a tutti! Abbiamo troppe cose da fare, alla fine non abbiamo più energia, ma qualcosa si può fare e lo faremo nel corso della nostra trasmissione. Ma a proposito di stress, i nostri ascoltatori ci stanno già scrivendo. La scossa di terremoto è stata avvertita in modo più o meno forte in tante parti, anche qua a Milano l'abbiamo sentita, e questo è proprio un evento che improvviso che ci fa suonare tutte le centraline. Assolutamente, lo stress è un meccanismo di sopravvivenza e questo è esattamente uno dei casi tipici in cui scatta, quindi una situazione inusuale, improvvisa e anche di potenziale pericolo. È un meccanismo molto antico, un meccanismo che noi ci portiamo dietro dai tempi degli uomini delle caverne, che innesca un prestito energetico, cioè l'organismo va a prendere energia da tutte le funzioni non immediatamente indispensabili in quel momento e fa fluire energia chimica agli arti, alle braccia e alle gambe. Proprio per poter fuggire o difendersi, fuggire o combattere. Esattamente, è la classica risposta. Quindi è proprio l'istinto che entra in gioco. Questo da una parte è molto utile, dall'altra nella realtà urbana, civile, moderna che noi viviamo, spesso ci crea degli effetti collaterali perché scattano dei meccanismi atavici di fronte a fattori come qualcuno che ci prende il parcheggio, un collega che ci parla con un tono di voce che non ci è piaciuto, un fax con una richiesta inaspettata, e scatta lo stesso meccanismo di energia muscolare che ci farebbe scappare. Quindi l'allenamento, e qua ci ricolleghiamo anche al terremoto di oggi, è il famoso contare fino a 10, in modo da dare il tempo anche alla testa, anche alla ragione, di valutare la situazione. Quindi è molto importante proprio non farsi prendere dal panico e lasciarsi quei 10 secondi per valutare effettivamente qual è la situazione, in modo da mettere in atto il comportamento giusto. Perché noi rispondiamo più a livello fisico che a livello mentale, perché siamo proprio programmati per fare così. Noi, il nostro stile di vita è evoluto più rapidamente di quanto siamo cambiati noi dal punto di vista biochimico. Esattamente, è proprio così. La mente istintiva reagisce più rapidamente della mente razionale. Allora, se volete parlarne, anche se volete subito dopo questa, per alcuni ascoltatori me lo stanno scrivendo, nonostante la scossa sia stata avvertita anche magari magari in modo non forte per brevi secondi, ci sono ancora le centraline che suonano dentro di noi, 800 24 00 24. Dottoressa Danon, allora, molti di noi avvertono con grande intensità delle situazioni di pericolo, di rischio, anche perché sono particolarmente tesi, sono come si dice in riserva, un po' stressati. Questo ad esempio di oggi che stiamo vivendo è una dimostrazione. Sì, quello dello stress è un meccanismo di prestito energetico e abbiamo visto che scatta in automatico. Il salto di qualità oggi è quello di prendersi appunto quei 3, 4, 5, 10 secondi per decidere prima di tutto se vale la pena farsi dare questo prestito energetico. Poi, una volta che ormai questa energia chimica, adrenalina, l'abbiamo nelle braccia e nelle gambe, scaricarla. Altrimenti quello che succede, oltre all'inganno, la beffa, non solo abbiamo contratto un prestito spesso oneroso col nostro conto in banca energetico, ma addirittura se noi non lo spendiamo, se questa energia non la scarichiamo, stiamo anche male. Spesso oggi noi vediamo che c'è proprio un abuso di stress. Stop allo stress non vuol dire stop allo stress, che è comunque un meccanismo di sopravvivenza, ma stop alla cattiva gestione dello stress. E come noi siamo un po' addicted, assuefatti. All'uso di stress, perché comunque ci dà energia, ci permette di avere delle performance più brillanti, ci fa sentire anche bene. Il problema è che non ci rendiamo conto che quell'energia che abbiamo in più è un prestito che abbiamo chiesto al nostro corpo. Allora proviamo a capire se siamo in riserva, se sprechiamo anche il tempo e l'energia. Abbiamo preparato un piccolo test tratto dal libro della dottoressa Danon, a cui vi chiedo di rispondere proprio sinceramente. Se vi riconoscete nella maggior parte delle situazioni descritte, fermatevi e chiamateci all'800 24 00 24. Allora iniziamo a capire come ci sentiamo, come ci sentiamo adesso. Pronti? Mi sento in affanno per via dei numerosi impegni. Sono tesa, non riesco a concentrarmi. La sera faccio fatica a fermarmi e a rilassarmi. Dottoressa Danon. E questa è la chiave. Questa è la chiave che ci fa vivere male lo stress. Non ci concediamo l'indispensabile fase di riposo. Lo stress va benissimo, possiamo contrarre un prestito energetico, chiedere all'organismo di darci qualche cosa in più, a condizione di poi prenderci il necessario momento di riposo. È come dire che dai nostri risparmi possiamo attingere a una somma eccezionale per farci una volta un viaggio, ma poi dovremo permettere che il nostro conto, che i nostri risparmi ritrovino il loro equilibrio, altrimenti prima o poi faremo bancarotta. E allora cerchiamo di capire che cosa facciamo. In genere svolgo più attività contemporaneamente. Il mio motto è chi fa da sé, fa per tre. Mi sento in colpa se mi prendo del tempo per me. Non ho tempo per lo svago. Il lavoro è il mio hobby. Dottoressa Danon, una situazione abbastanza classica. Abbiamo aperto con Angela Finocchiaro che raccontava la sua giornata tipo. C'era da sorridere, ma mica tanto. È fondamentale che ognuno di noi si alleni a essere presenti ai propri bisogni e si costruisca uno stile di vita coerente con le energie effettivamente disponibili. Quindi il fatto di prendersi dei momenti di riposo, di ricarica, di qualche cosa che permetta di svagare anche la mente è uno degli antidoti fondamentali per riuscire a vivere bene. E allora oggi proprio vogliamo chiedere agli ascoltatori, dottoressa Danon, di raccontarci il modo in cui scaricano lo stress o meglio si ricaricano di energia, ma un modo che sia condivisibile, se hanno una ricetta da condividere con gli altri. Certo, i modi di scaricare lo stress sono tanti quanti siamo noi, nel senso che sono infiniti strategie per farlo. L'interessante è condividerle, quindi sentire ognuno di voi o chi avremo modo di sentire cosa fa, cosa gli si rivela efficace, funzionale nel gestire lo stress, perché comunque può fungere anche da suggerimento per qualcun altro. Per tre di voi, tre libri che gentilmente la dottoressa Danon ci ha portato in redazione di Stop allo Stress, 800 24 00 24 e tante volte sono le relazioni con gli altri che funzionano un po' come una cartina tornasole del modo in cui noi affrontiamo la vita. Quando siamo particolarmente tesi, gli altri diventano un tantino pesantucci. Andiamo a sentire. Ultimamente rispondo male alle persone che ho intorno. I difetti degli altri mi danno sempre più fastidio. Tendenzialmente sono irascibile o sento che potrei diventarlo. Mi dà fastidio che gli altri siano tanto lenti. Dottoressa Danon, questo sì. È un classico, quando gli altri diventano sì. quasi insopportabili, ti viene mamma mia questo qua lo ammazzerei, vuol dire che qualcosa in noi è un po' troppo teso? Sì, le conseguenze dello stress sono sia a livello fisico ma soprattutto anche a livello comportamentale, a livello relazionale, perché chi ci sta attorno finisce per fare le spese del nostro stato di ipertensione, finiamo con l'essere meno disponibili, meno attenti, meno empatici e vediamo solo quello che il lavoro che ci preme finire o l'obiettivo che ci sta premendo portare a termine. Ci dimentichiamo che nella vita non c'è solo il lavoro, non ci sono solo le cose da fare, ma l'importanza delle relazioni e della qualità delle relazioni con gli altri. Allora, oggi riflettiamo sul rapporto che abbiamo con gli altri, sulle cose che facciamo, più cose spesso contemporaneamente, come ci sentiamo, prendendo anche spunto dal grande spavento che molti di noi, io devo dire che ero in macchina e non ho sentito nulla, qua in redazione hanno sentito questa scossa e ho notato, raccogliendo le impressioni dei colleghi, che le reazioni sono state molto diverse. Qualche cosa la dice lunga, questa la dice lunga, per cui voglio invitarvi a parlarne con noi, possiamo approfittare della dottoressa Danon, 800 24 00 24. Ecco Nicoletta, sì, io sono Cristina Carpinelli della redazione, giustamente come dicevi tu noi anche con i giornali radio ma anche con queste finestre stiamo cercando di tranquillizzare tutti gli ascoltatori che ci stanno chiamando per raccontarci la loro esperienza, come hanno vissuto questa mattinata che è stata segnata da questa forte scossa di terremoto, una scossa di terremoto che continua ad avere in questo momento scosse di assestamento, la prima, la più forte è stata quella di magnitudo 4.9 con epicentro nella provincia di Reggio Emilia. Si tratta di un terremoto abbastanza profondo, fra 25 e 30 metri. Questo ci hanno spiegato i sismologi e Katia Caramelli ha sentito in particolare Massimiliano Stucchi, dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sentiamo. C'è stato un terremoto anche stanotte nel Veronese, un po' più piccolo di quello di stamattina, e poi un terremoto nella Parmense questa mattina di magnitudo 4.9. Cioè un terremoto di energia media rispetto all'Italia, ovviamente si è sentito in una porzione importante dell'Italia settentrionale, ma anche questo è abbastanza normale. Non è uno sciame, perché uno sciame è una serie di eventi che dura per qualche mese. Ciascun evento un po' grandino come questo ha delle repliche. Le repliche sono delle scosse più o meno localizzate nello stesso punto che hanno una magnitudo un po' inferiore, e questo è normale, ma non fa uno sciame. Uno sciame se ne parla dopo qualche settimana, mesi. Se per sapere che cosa succede non lo sappiamo, né se è uno sciame né se no, nel senso che non c'è un modello evolutivo consolidato per cui noi possiamo dire ah ecco, siamo arrivati qui quindi ci sarà un terremoto forte. No, tutta l'Italia è sismica. Cioè in tutta l'Italia si possono generare dei terremoti, più o meno forti. In questa zona questo terremoto non sorprende, cioè possono generarsi terremoti anche più forti di questo, nella zona dell'epicentro. E questa dunque la situazione vista dagli occhi di una persona che normalmente si occupa di questo. In realtà chi non è abituato a trattare il tema del terremoto e si è sentito appunto questa forte scossa ha reagito, come dicevi tu Nicoletta, in maniera differente. A Milano ci sono state tantissime persone che sono uscite spontaneamente da casa, moltissime le scuole evacuate. Ancora adesso continuiamo a chiamare nelle segreterie delle scuole, è tutto occupato, quindi molte le persone, i genitori che stanno chiamando per avere informazioni. La stessa cosa è avvenuta a Torino, ma praticamente in tutto il nord Italia, dalla Liguria alla Toscana al Trentino Alto Adige. La cosa positiva che possiamo dare adesso come notizia è che nonostante appunto la scossa sia stata molto forte non ci sono danni né persone ferite. Per ora è tutto. E allora, Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, mi sta segnalando che è tempo di dare la linea ai mercati. 800 24 00 24, invito gli ascoltatori a continuare a chiamarci, daremo presto la linea anche a voi. Dopo i mercati e il meteo io vi aspetto. Essere e benessere. Siamo tornati, 800 24 00 24, se volete parlare con noi, me lo auguro, chiamandoci possiamo parlare di come riusciamo a gestire in modo proficuo la nostra energia. Non dobbiamo fare chiedere dei prestiti perché poi dobbiamo pagare poi gli interessi, il nostro conto di energia si abbassa drasticamente e andiamo sul lastrico, questo non lo vogliamo fare. Vogliamo parlare anche con voi, oltre che della gestione delle energia e quindi di come riuscire a cavalcare tra virgolette lo stress, di che cosa avete provato, che cosa avete sentito dentro di voi a seguito di questa delle scosse di terremoto che abbiamo avvertito, di cui vi stiamo dando gli aggiornamenti. In studio con me ho la dottoressa Danon e potrei dire che il consiglio di oggi, della trasmissione di oggi, potrebbe essere imparare ad agire e non reagire. Tradotto banalmente, conta fino a 10, come ci dicevano. E se vogliamo invece tradurlo in maniera più elegante, come farebbero e come fanno gli psicologi, è evitare gli automatismi. Sì. Possiamo fare un esempio? C'è un consiglio molto pratico, proprio volendo riassumerlo in tre pillole, in tre tappe. Fermati, respira, cambia qualcosa. Fermati nel senso non andare in automatico, aspetta proprio quella manciata di secondi in più che sono indispensabili per valutare la situazione effettivamente, per chiedersi io che cosa voglio da questa situazione. Respira perché prima di tutto immetto ossigeno nell'organismo e riattivo la mente, mentre il meccanismo di stress è nato all'obiettivo di potenziare gli arti, ma va il respiro in effetti si fa ci scollega col cervello. Ci scollega col cervello, esattamente. E il cambia qualcosa è una volta che ho osservato la situazione come sto, a rendermi conto che posso cambiare qualcosa. Questa è la ricetta della dottoressa Danon, ma anche voi avete la vostra ricetta ed è quello che noi vi invitiamo a raccontarci, a suggerirci delle ricette che possono essere applicabili e estendibili in più situazioni. Abbiamo in linea con noi Giovanni che ci chiama da Foggia. Buongiorno Giovanni, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, salve. Buongiorno a lei. Niente, volevo chiedere alla sua esperta, visto che io da 4-5 anni avevo iniziato a correre, quindi la mattina mi alzavo puntualmente alle 7, un po' come avete fatto sentire voi da resto, in versione femminile, io lo facevo in versione maschile. Quindi sa preparare anche le frittelle, Giovanni. Questo sì, purtroppo per un piccolo problema dovuto alle ginocchia, fortunatamente non può più correre. Non potevo più correre. A un certo punto questo si è innescato una vera e propria crisi che mi ha portato ad avere dei seri problemi, a rivolgermi anche a qualche psicologo per capire quale poteva essere la strada migliore. E ho intrapreso la strada dello yoga. Sì. Questa tecnica di respirazione mi ha fatto sì che il periodo è superato, però non del tutto, purtroppo adesso ho ancora problemi, quindi volevo qualche consiglio in più. Un consiglio che secondo me Giovanni, la dottoressa Danon ha dato, io me lo sono appuntato perché lo applicherò in diverse situazioni, è fermati, respira e cambia. Queste sono le tre regole, le tre pillole, i tre passi per diventare consapevoli ed evitare gli automatismi. Dottoressa lo Danon. Yoga è sicuramente un'attività principe perché ci aiuta proprio anche a calmarci, a rilassarci, permette un lento riequilibrio dell'organismo, ma sicuramente la corsa e tutte le attività motorie aiutano proprio a scaricare in modo certo, molto diretto. Certo, perché non può fare la corsa, yoga, ma anche ci nutriamo anche di altro. Ma yoga o tantissime movimento. Anche altre cose, quindi l'invito è proprio quello di sperimentare anche altre pratiche di scarica anche proprio di energie muscolari, magari che coinvolgano più le braccia e non le gambe o che non siano così impegnative per le ginocchia. Io spero che nell'arco della trasmissione sentiremo proprio diversi pareri, diversi suggerimenti di tanti diversi modi di gestire lo stress. Anche perché ciascuno di noi, continuiamo a dire che ciascuno di noi è unico, irripetibile, sì, e ci sono delle persone che per recuperare energie devono stancarsi fisicamente, altri invece mentalmente o svagarsi. Sì. Andrea, dalla provincia di Grosseto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io per gestire il mio stress faccio molto volontariato presso una misericordia e soltanto l'idea di poter aiutare una persona o più persone o salvare una vita è per me energia, mi ricarica. Grazie. Quindi è il mio modo per gestire lo stress questo qui. Grazie Andrea. Ottimo. Segniamo di il relazioni. Suo contributo. Stefano dalla provincia di Roma. Buongiorno Stefano. Buongiorno Salve. Dunque, io volevo fare invece una domanda alla dottoressa un pochino diversa per quello che riguarda lo stress cronico. Sì. Cioè, quando si fa parte di una categoria lavorativa che istituzionalmente è sottoposta a una forma di stress cronico perdurante nel tempo, come la mia, insomma, io sono un anestesista, lavoro nell'emergenza sanitaria. Sì. Quali sono i danni che provoca lo stress cronico che non può essere purtroppo evitato, soprattutto quando cominciamo a parlare di decenni? E mi sembra poi inoltre che sebbene si parli da molti anni di stress, la comunità scientifica ancora non si è riuscita ad imporre l'eccesso di stress come una vera malattia. Che possa essere riconosciuta ad esempio come lavoro usurante. Cioè, mi sembra che ci sia un po' dal punto di vista della comunità scientifica e poi delle istituzioni che dovrebbero occuparsi, una specie di ipocrisia di fare e non fare. Il problema è che ciascuno di noi reagisce allo stress in modo differente, quindi dottoressa Danone. Una buona notizia è che a livello legislativo con la famosa 8108 che sostituisce la 626 dovrebbe esserci proprio come dovere la valutazione dello stress potenziale in ogni campo di lavoro, a maggior ragione in campi come il suo, in cui si è sottoposti proprio a uno stress costante, e dovrebbe assumersi la responsabilità di favorire tutto quello che può permettere l'evitare gli accumuli, quindi riunioni d'equipe in cui ci sia la possibilità di esprimersi e di raccontare il proprio sentire, pause, opportunità di fare anche altre attività, però sappiamo benissimo che a volte non tutte le strutture si sono ancora adattate così rapidamente e allora siamo noi come singoli individui, come singoli lavoratori che dobbiamo assumerci la responsabilità di inserire nell'arco della nostra vita quotidiana, della nostra giornata, piccoli momenti o piccole attività che possono fare sì che non si esploda prima o poi, soprattutto nel suo campo il rischio è quello del burnout che porta a perdita di motivazione. Quali sono i segnali, i sintomi, i campanelli d'allarme? Sicuramente la perdita di motivazione, il cattivo umore, il cattivo modo di relazionarsi con gli altri, la maggior vulnerabilità a raffreddori, a piccoli malanni, perché c'è proprio un abbassamento delle difese immunitarie. Rosaria, buongiorno, ci chiama da Latina. Buongiorno. Rosaria, buongiorno a lei. Sì, ecco. Eccomi. Il mio problema è questo. Posso? Certo, Rosaria, grazie di averci chiamato. Grazie a lei, a voi. Niente, io ho visto del terremoto dell'80, praticamente ero a Salerno, ero bimba, avevo 9 anni, e a distanza di tantissimi anni ancora ogni volta che sento anche solo la notizia alla radio di un terremoto, insomma cosa del genere, mi sento male praticamente. Io non tremuro alle gambe fortissimo e devo aspettare che passi, ma può durare anche mezza giornata questa cosa. No, è normale. Sì, purtroppo il nostro cervello memorizza eventi e l'emozione corrispondente. Quindi il problema è che ogni volta che si ripropone un evento in qualche modo che sentiamo come simile, ci ripropone anche la stessa emozione. L'importante è sapere che possiamo appunto agire e non reagire, cioè non siamo condannati a seguire sempre questo ripetersi dell'evento del passato. Però è importantissimo che lei riconosca quello che succede, che si fermi un attimo, che si conceda il tempo per respirare, rilassarsi, e vedrà che questo tremore, questo disagio ogni volta si smaltirà più rapidamente. Non possiamo fare finta che non ci sia, c'è, va onorato, ma va scaricato accogliendolo, e vedrà che ogni volta, ogni episodio, a poco riuscirà a liberarsene più rapidamente. È importante anche parlarne, condividere, ha fatto benissimo a chiamarci. E quindi vi invito a chiamarci 800 24 00 24, ma a scriverci come ha fatto Gian Pietro da Verona, che a proposito della scossa mi ha scritto: io ho sentito un forte peso al petto, sono rimasto pietrificato, non sono riuscito a fare e a pensare nulla. Ma che allora, che cosa si fa e che cosa si può pensare? Lo chiediamo al professor Marco Lombardi, direttore scientifico della Scuola Superiore di Protezione Civile. Professore, grazie per essere con noi. Eccomi, sono tutto vostro. Ecco, noi volentieri sentiamo che cosa ci può suggerire lei, perché questa scossa a molti, come la nostra ascoltatrice, molti degli altri ascoltatori che mi stanno scrivendo, ha riattivato dei ricordi, perché il terremoto l'ha vissuto, e per altri che invece si confrontano con questa scossa per la prima volta, la cosa ha sicuramente generato molta paura. Professore, che cosa si fa nel concreto? Beh, certamente con un terremoto si può convivere. Diciamo, il terremoto è un fenomeno naturale, non prevedibile, che dura molto poco, al quale i nostri territori sono esposti. Quindi è fondamentale sapere che rischi corriamo e in che modo comportarci. Cominciando a tener presente che, soprattutto se abitiamo in una casa moderna, queste case sono sufficientemente adeguate per darci un riparo sicuro rispetto al terremoto. Anche rispetto alle scosse che sono capitate oggi, se vediamo i danni ci rendiamo conto che le nuove strutture sono più che sicure. Allora, che cosa dobbiamo fare? Beh, intanto, se siamo in casa, la cosa fondamentale, so che forse è la più difficile, è mantenere la calma. Rendersi conto di quello che sta accadendo. Attenzione, il panico, la paura, questo agire d'impulso senza pensare può essere molto più pericoloso del terremoto stesso. Quindi, professor Lombardi, fermati e respira, come ci diceva la dottoressa Danon. Questo è il primo passo. Noi adesso ci fermiamo perché dobbiamo dare gli aggiornamenti sul traffico e ritorniamo insieme alle vostre telefonate, al professor Marco Lombardi e alla dottoressa Danon. Tra poco. Essere e benessere. Mantenere la calma è un consiglio che può essere dato a tutti, dato per diverse situazioni, anche per quella che molti di noi hanno vissuto, e quindi fermati e respira. Professor Lombardi. Eccomi a voi, ma questo è il prerequisito, diciamo così. Dopo, per un terremoto si fanno alcune cose. Sì. Per esempio, siamo a casa, qual è l'effetto del terremoto? Di far cascare le cose. Sì. Allora, se siamo a casa, stiamo lontani dalle finestre, stiamo lontani dai vetri, non ci avviciniamo alle finestre sulla strada, non andiamo sui balconi, stiamo attenti se siamo vicino al televisore o alla libreria che non ci caschi addosso. Possiamo ripararci, andiamo a finire sotto un tavolo, andiamo nell'architrave di una porta vicino a un muro maestro. Di certo non usciamo di corsa mentre la casa sta ballando durante la scossa. Questo è qualcosa, per esempio, da non fare. Non ci si precipita di corsa verso le scale. Di certo ancora non userò mai l'ascensore, né dopo il terremoto stesso, perché potrebbe essersi disassato o fuori posto. Quindi, mentre c'è la scossa, cerco con calma di ripararmi da quello che potrebbe cadere, allontanandomi o nascondendomi sotto a qualche cosa. Egualmente, se sono a scuola, tanti nostri ragazzi saranno stati a scuola. Sì. E allora, a scuola che si fa? Prima regola, si ascolta l'insegnante. Okay, l'insegnante sa come ci si deve comportare, quindi non si grida, non si urla. Quando sarà il momento opportuno ci si metterà in coda e ordinatamente si uscirà lungo le scale dalla scuola, ma la cosa fondamentale è seguire l'insegnante. Sono le stesse regole che adotto in casa, come così se fossi per una strada. In una strada un terremoto ha l'effetto di far cadere sulla strada dei vetri, delle tegole o quant'altro dalle case. Allora, se sono su una strada, preferisco una piazza. Cerco di allontanarmi dagli edifici più alti dove potrebbero cadere dei pezzi o qualche cosa e raggiungere una piazza. Questo è mentre c'è la scossa. Dopo? Dopo, se sono a casa, se sono in una scuola, se sono in un edificio pubblico, come si dice, evacuo, cioè esco all'aperto. Sì. Allora uscire all'aperto significa che cosa? Avere l'obiettivo di raggiungere un luogo che sia a sufficiente distanza dagli edifici, per esempio una casa. Spesso nelle grandi città, soprattutto all'estero, questi luoghi sono identificati da appositi cartelli, da apposite indicazioni. Per fare questo, o l'ho detto prima, non scendo lungo le scale, tantomeno corro lungo le scale. Noi siamo abituati a farle, con i gradini tutti in ordine. Provate a mancare un gradino quando scendete normalmente una scala e a farne due in una volta. Sì. Beh, il terremoto potrebbe averne spostato qualcuno e a quel punto potremmo fare un volo, farci male, per una causa indiretta del terremoto. Quindi molta attenzione, e ancora un punto voglio sottolineare. Una volta che è finito il terremoto, nel bene e nel male ci siamo assestati. Se è possibile, prima di lasciare casa, chiudiamo la corrente, chiudiamo i rubinetti del gas, chiudiamo l'acqua, perché le tubature si rompono e saltano, e una casa magari in ordine che viene invasa dal gas, che viene invasa dall'acqua e magari poi scocca una scintilla, beh, è una casa che perdiamo ancora una volta per gli effetti indiretti del terremoto. Per cui le cose da fare tutto sommato sono abbastanza semplici. Ed è ancora una volta, certo, professor Lombardi, evitare gli automatismi. Noi abbiamo questo era un po' il tema della trasmissione, e con la notizia di oggi si è sembrato utile dare queste indicazioni, perché tante volte essere informati, conoscere le cose, ci evita di mettere il pilota automatico, ma di ragionare. Professor Lombardi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Franco da Brescia, buongiorno. Franco? Sì, buongiorno a lei. Sì. Io ho ascoltato attentamente tutti i consigli del professore. Solo che una cosa è la teoria, un'altra è la pratica. Immagino. Perché però io ho fatto la pratica. Nel Belice nel 68 ero nei Vigili del Fuoco, e quindi mi sono trovato una scossa dell'ottavo grado dentro in una casa al primo piano. E eravamo in sei persone, e quando è venuta la scossa, che è una cosa tremenda, non la scossettina di stamattina, è l'istinto che fa. Lì hai voglia di usare la testa, ma come dice la dottoressa Danon, noi siamo fatti proprio per reagire alle situazioni stressanti con le gambe e con le braccia, cioè cercando la fuga, e proprio siamo programmati per fare così. Franco. Lo so, però meglio saperle, no? Queste certo cose. Che bisogna saperle, però c'è una cosa che purtroppo siamo fatti in un modo che questo automatismo è più forte della razionalità. Tant'è vero che quando avevo sentito la scossa del Friuli, io abitavo al quarto piano, avevo due bambine piccole, forte di quell'esperienza ho preso le mie figlie, non ho chiuso il gas, non ho spento la luce, sono corso giù dal quarto piano di corsa, va bene? Va bene che ero molto più atletico allora. Va bene. Comunque, ma certo, questo per portarle in salvo. Statene calmi a riflettere, è una cosa teorica, ma non succederà mai, perché noi siamo fatti così. Passare all'azione. Grazie Franco che ci ha raccontato la sua esperienza, dottoressa Danon. È vero che è difficile, ma è possibile. Un antidoto allo stress io lo chiamo consapevolezza, è un muscolo che va allenato, si tratta proprio di attivare un'altra parte del cervello, stiamo parlando proprio dei lobi parafrontali per entrare in dettagli, che è quella parte del cervello che è capace di fermarsi un attimo e di scegliere che cosa fare. Quindi l'istinto è un grosso dono che abbiamo, è preziosissimo, ma non siamo condannati a farci regolare, dirigere solo dall'istinto. Abbiamo rapidamente Isabella che ci chiama dalla provincia di Parma, 800240024, buongiorno. Buongiorno, io chiamavo in relazione allo stress, in realtà a Parma poi c'è stato il terremoto, quindi mi dirà lei se è meglio che parli dell'uno o dell'altro. Ma Isabella, può parlare di tutte e due ad una condizione, che lo faccia rapida perché io tra poco devo salutarvi. Per lo stress, per anticipare le condizioni di stress che io so quali sono, e cioè essere schiacciato dalla presenza sempre costante di altri, dall'orologio, i tempi, io cammino, mi faccio i percorsi e scopro la città anche da un punto di vista delle nuove vie, guardo in tutte le case eccetera, e questo mi fa benissimo. Brava. Quindi lo anticipo. Brava, perché c'è questo nutrimento che noi inconsapevole che ci fa stare bene. Mentre non lo scopo nella passeggiata, mentre per quanto riguarda il terremoto io c'ero, l'ho sentito molto forte, anche sì, perché sono all'ultimo piano, mi è venuto in mente quello che ho già nel corpo e nella mente dell'80, ero piccolina, e che cosa ho fatto? Ho aperto la porta e mi sono messa sotto, quindi ho reagito in modo razionale, se vogliamo, sotto sì, lo stipite della porta, che però ballava e quindi non mi ha rassicurata. Dopodiché, quindi sono rimasta lucida e quando è finito mi è venuta una paura tremenda, tanto che ho avuto persino, mi sono scorata, nel senso che avevo persino la nausea, ecco. Questa della forte emozione tremavano. E le gambe facevano Giacomo. Io direi, dottoressa Danon, che alla nostra amica Isabella da Parma potremmo far ricevere a casa uno dei tre libri che lei ha messo oggi a disposizione. Ricordo: Stop allo stress, guida pratica per gestire meglio tempo ed energia, Urra Edizioni. E tra l'altro altre due copie sono a disposizione per gli ascoltatori che ci chiameranno, ci scriveranno su Facebook. Oggi Stop allo stress viene presentato a Milano alla libreria Feltrinelli di Corso Buenos Aires, per cui per gli ascoltatori che sono di Milano alle 18 possono avere questo appuntamento. Grazie dottoressa Danon, devo salutarvi, grazie per questa guida antistress e grazie a voi che ci avete seguito.